prima ipnosi. Rilassati, ascolta la mia voce, chiudi gli occhi. Ho paura. E di cosa hai paura? Di chiudere gli occhi. È da quando ero piccolo che ho paura di ogni genere di chiusura. Bene, allora apri la tua mente. Ho terrore. E di cosa hai terrore? Di aprire la mente. Ogni genere di apertura mi mette ansia fin dalla prima infanzia. Vediamo. Diminuisci le resistenze della tua coscienza. Lo stai facendo? Non capisco cosa devo fare. Allora sei una persona poco pratica. Vediamo. Libera la tua testa dai pensieri superflui. Ci riesci? Non lo so fare. Allora sei incapace di intendere e di volere. Finché morte non ci separi. Mi vuoi sposare? Ah. Bene. La domanda inaspettata ti ha fatto lo sgambetto e sei caduto sotto ipnosi. Ah. Bravo. Guarda davanti a te. C'è un foglio bianco con sopra una fotografia. Che cosa vedi? Il mare. Ah, e ti piace? Ah. E cosa fai al mare? L'onda, il castello di sabbia, la nuotatina? Il pescatore. Bravo, ti dai da fare. Molto bene, molto bene. Guarda ancora l'immagine, a destra, a sinistra, sopra, sotto. Sei da solo? No. E chi c'è insieme a te? A me lo puoi dire, siamo amici. C'è un altro. Un altro? Bene, siete in due, vi fate compagnia. Ora guarda bene la fotografia davanti a te e al mio tre ci entrerai dentro. Uno, due, tre. Pescatori. Si pesca bene? Non sto pescando, sto acchiappando farfalle. Si prendono belle farfalle? Non ci sono farfalle nel mare. E allora perché cerca le farfalle? In mare ci sono i pesci. Sì, ma non saprei che pesci prendere. Beh, potrebbe prendere delle acciughe, delle aringhe, delle alacce. Troppo banali. Potrebbe prendere dei pesce palla, dei pesce salmone, dei pesce pagliaccio. Troppo sofisticati. Degli squali, delle murene, delle stelle marine. Le stelle stanno in cielo, non stanno in mare. E allora si faccia pescatore di cieli. E cosa si pesca in cielo? Beh, in cielo ci sono le stelle e i pesci, ma ci sono anche capricorni, sagittari, vergini. Ah, una vergine sarebbe quello che ci vuole, ma sono un ragazzo timido. Oh. E allora doni la sua vita alla fede, si faccia pescatore di uomini. Così rapiscono gli alieni, approfittando della religione. Primo discorso alieno. Popolo sottomesso, ecco davanti a voi l'alieno. No. Alieni dovremmo essere per i terrestri. Noi dovremmo avere una nostra identità. Giusto. Per i terrestri una nostra identità fantastica, difesa negli anni, la nostra identità che è... Prendiamo il nome dal pianeta di origine, come fanno i terrestri. Giusto, il nostro pianeta di origine, che ci ispira tanta nostalgia, a cui vorremmo tornare, che si chiama... Generale, lei ha già dimenticato. Tutti questi milioni di chilometri mi hanno alienato. No, alienati dobbiamo essere per i terrestri. Giusto, corretto. Popolo sottomesso, non siamo venuti in pace. Nessun dio ci ha eletto a dominatori dell'universo, poiché noi siamo quel dio. E poi mi avete eletto a vostro Führer! A dire il vero, nessuno l'ha eletta. E poi Führer è un termine desueto che non fa più presa sulle masse ormai. Ah, e cosa vuol dire? Io l'ho usato così, per sfizio storico. Ma indica un imbianchino tedesco che in pochi anni mise a ferro e fuoco il mondo. A ferro e fuoco? Sì. Un fabbro? Un imbianchino. Ah. Alieni nella storia. Hitler. Allora Hitler, se tu avessi in mano la stanza dei bottoni, cosa faresti? Beh, una bella stuccata, rasatura e due mani di bianco. No, Hitler, devi uscire da questa mentalità artigiana. Secondo te al mondo sono tutti uguali? No, ci sono i maschi e le femmine. Sbagliato, ci sono i belli e i brutti. Ah. E i belli sono alti, biondi e con gli occhi azzurri. Allora io sono brutto? No. Tu sei bello, Hitler, biondo e slavato. Ma io non mi vedo così. E ci vedi male. E cosa ci facciamo coi brutti? Beh, una bella stuccata, rasatura e due mani di cipria. No, Hitler, i brutti li uccidiamo. Ah, allora siamo cattivi. No, siamo belli. E ricordati, Hitler, la razza aliena. La razza Ariana. Aliena. Ariana. Intervista a Gianni Barba. È da lontano 1932 che i gufi hanno facoltà di parola, da quando il decano Gianni Barba, che ora è qui accanto a me, pronunciò la parola mamma davanti alle cineprese di un cinegiornale. Preparavo quella parola da anni, rimasticando la M nel becco per sputarla sulla A. Ho superato lo scoglio della doppia M, mi venne tutto molto naturale. Da allora oggi i gufi hanno fatto molta strada. Da creature ferine notturne sono entrate ormai nella vita di tutti i giorni, vivendo nei quartieri più miseri e malserviti, svolgendo i lavori più umili e malpagati, masticando parole di ogni tipo. Masticare le parole è semplice, digerirle non sempre. Gli uomini ci trattano come bestie, ma da sempre affasciniamo le donne sposate che trovano riparo tra le nostre piume. E perché proprio le donne sposate? Perché crediamo nel valore della famiglia. Gianni Barba e Marisa. Ma io sono sposata, Gianni Barba. Ci credo, ci credo. Mio marito è un bravo uomo. Oh, ci credo, ci credo. Gli voglio tanto bene. Anch'io, anch'io. Ma tuo marito è così triste, sempre al lavoro. Lavora da mattina a sera. Tuo marito è una bestia. Godiamocela noi, che siamo giovani. Alieni nella storia. Newton. Allora, Newton, sei sotto un albero e ti cade una mela in testa. Sì. Perché? Perché è matura. Sì, sì, perché è matura. Ma perché ti cade in testa? Perché stavo sotto l'albero. Vabbè, Newton, proviamo un altro esempio. Se ti lanci da una finestra, cadi al suolo. Sì. Perché? Perché mi volevo suicidare. Ma non essere così istintivo, Newton. Riflettici un attimo. Eh no, il suicidio è un gesto istintivo. A rifletterci passa la voglia. Non sul suicidio, Newton. Sulla gravità. È più grave a vivere infelici. Sto parlando della forza, Newton. Non la trovo più, la forza. Non la forza più. Di gravità. Ah. Oh. Hai capito adesso, Newton, perché la mela ti cade in testa? Sì, sì, sì, sì. E perché? Perché si voleva suicidare. I gufi si barricano in casa. Non voglio più uscire di casa. Ma non siamo mai usciti. Tu sì, una volta lavoravi. Lavoravo in bagno. Per questo era sempre occupato. E perché non vuoi più uscire di casa? Ho sentito dire che gli alieni sono sbarcati sulla Terra. Ah, gli alieni non hanno le barche. Dici che non è vero? Dico che gli alieni non hanno le barche. E tu come lo sai? Sono un lupo di mare. Ma tu sei un gufo! Sono un gufo di mare! Seconda ipnosi. Sono a disagio. Ah, sei a disagio. Bene, ti vergogni. Non ti guardo. E di cosa ti vergogni? Di tutto. Di tutto, bene, non di niente. Molto bene. Forse hai dimenticato chi sei e ti frequenti da estraneo. Ma tu lo sai chi sei? Sono Luigino. Ah, Luigino, piacere, piacere. Guardati le mani, Luigino. Come sono? Ci sono le piume. Ah, e i piedi? Sono artigli. Oh, e gli occhi? Tondi e gialli. Gialli. E il naso? È un becco. Ma allora sei un uccello. E che uccello sei? Sono un gufo. Bello, bello, un gufo. Civetta, Barbagianni o gufo? No, gufo, gufo. Bene, ma il gufo sa volare? Sì. Tu sai volare? Certo. Ah, proprio un bel gufo allora. I gufi nella Bibbia. Allora, ripeti insieme a me. Ma come, io so parlare? Ma articolo pensieri e concetti complessi. Potrei raccontarti il motivo dell'estinzione dei dinosauri, il terzo segreto di Fatima. Senti, io sono Dio, queste cose le so. Ti ho creato per fare quindi tu ripeti insieme a me. Bravo. L'insonnia di Luigino. Non ho sonno. Non è mai successo? È una novità. Che belle queste serate piene di cose nuove. E cosa hai intenzione di fare? Beh, vorrei provare a uscire di casa, andare a cercare un lavoro notturno, andare a vedere un film al cinema, comprare un giornale. Ah. E quando vuoi farle queste cose? Luigino? Luigino? Luigino! È morto! Stai parlando con me? Sì! Scusa, mi ero assopito. Rapimento alieno. Qualcuno di voi umani conosce la data in cui è stata conquistata l'America? Ci basta anche solo l'anno. Lei? Venga qui. Dica. A 1000? 400? Sì. Ah, beh, era molto difficile. Non si sa come facesse a saperlo. Così rapiscono gli alieni, approfittando della cultura scolastica. Lo sbarco alieno. Gli innamorati. Guarda, una stella cadente. No, ho sentito dire che stanno arrivando gli alieni. Per me è una stella cadente. Beata ignoranza. Ho sentito dire anche che ci stermineranno tutti. Che cattivi. Ma tu non pensarci. Guarda la stella ed esprimi un desiderio. O vorrei che ci lasciassero vivere. Io vorrei financo morire al tuo fianco. Ma vorresti morire al mio fianco vivo o al mio fianco morto? Ho sempre amato il tuo fianco morto. Quanto ti amo. Lo sbarco alieno. Coppia in crisi. Stanno arrivando gli alieni. Non cambiare argomento, dov'eri ieri sera? Ma non capisci, è una cosa gravissima questa. Io non capisco, ma intanto ieri sera ero qui e tu non c'eri. Ma ti pare il caso, in un momento come questo, di scadere nel cliché della scappatella extraconiugale? Ma ti sembra il caso di nascondere tutte le tue scappatelle dietro a un'invasione aliena? Sicuramente è più originale. Lo sbarco alieno. Coppia di anziani. Stanno arrivando gli alieni. Cosa hai detto? Cosa ho detto? Hai parlato tu? Ma stai parlando con me? Lo sai che sono arrivati gli alieni? Ma non lo sapevo io che non dovevamo sposarci. Lo sai che sono arrivati gli alieni? Signorina, lei mi parla, ma io non la conosco. Alieni nella storia. Colombo. Allora, Colombo, dopo le colonne d'Ercole tutto a dritta, cosa trovi? La morte. La morte? No, perché la morte? E dopo le colonne d'Ercole non c'è nulla, le navi cadono. Ma dove cadono? Dove cadono? Non lo so, non lo sa nessuno, ma cadono, è scientifico che cadano. Ascolta me, Colombo, dopo le colonne d'Ercole tutto a dritta ci trovi un continente, quale? L'India. Ma perché l'India? No, c'è un continente nuovo. Se tu arrivi lì con l'arroganza della religione, rubi tutto, uccidi gli abitanti e torni indietro. Ci vuoi andare? Io volevo andare in India. Ma cosa ci trovi in India, Colombo? Il Colosseo, le piramidi d'Egitto, la Torre di Babele. In India. Vabbè, allora, dopo le colonne d'Ercole, tutto a dritta, trovi l'India. Buon viaggio, vai! Secondo discorso alieno. Ma perché? Perché voi umani siete così votati al fallimento? Ecco un uomo. E che cosa avrà di così diverso da noi, eh? Forse gli occhi, le tiepide spente pupille che tutto guardano e nulla vedono, fuochi fatui e anime disperse nell'universo, sono forse gli occhi. Gli occhi sono uguali ai nostri. Le mani, le minute mani dell'umano, scheletriche e sudate, che tremano nevrotiche e si abbandonano esauste all'immobilità. Hanno le mani diverse da noi. Le mani sono uguali alle nostre. I denti aguzzi dell'uomo che straziano e sciancano parole e lo rendono muto. Denti cavi e cariati in cui la voce si perde. I denti sono uguali ai nostri. Possibile, signori? Possibile che la materia abbia così poca fantasia nell'universo? Qui qualcuno sta facendo il doppio gioco. E quel qualcuno è lui. Questo non è un essere umano. Questo Questo qui è un essere umano, e che cosa avrà di diverso da noi? Forse gli occhi smaliziati. Impressionante. Le mani ciondolanti e spugnose. Impressionante. I denti pieni di tartaro e vergogna. Impressionante. Sono forse i denti? Identici. Terza ipnosi. Bene, che cos'hai in mano? Un'astronave. No, è un foglio di carta. No, è un'astronave. Va bene, un'astronave. Ma a cosa ti serve un'astronave? Tu sei un gufo, sai volare. Ah, non sono un gufo. Oh, lo hai capito anche tu finalmente, bravo. Ti chiedo di nuovo, chi sei? Sono un alieno. Ah, oh, che bello, molto originale, fantasioso l'alieno. Bravo, ma sei un alieno buono o un alieno cattivo? Cattivo, cattivo. Oh, bravo, bravo. No, cattivo. Cattivo, giusto, cattivo. Giusto, giusto. E che cosa sei venuto a fare qui? Sono venuto a conquistare la Terra. Ah, ma è un'idea molto innovativa, sì. Con le astronavi entrando nelle persone. Persone. Quanta sì. Fantasia. Sì. E hai già pronta la tua flotta? Sì. Bene, allora inizia subito, forza, datti da fare. Compirai un'impresa che resterà nella storia, molto bravo. Alieni nella storia. Freud. Allora Freud, cosa hai sognato stanotte? Niente. Non è possibile, è la tua mente che non vuole ricordare, sforzati. Non ho sognato nulla. Non ha senso Freud. Qualcosa devi averla sognata per forza. Forse hai sognato che dormivi. Non mi pare proprio. Dormivi da solo, Freud? Di solito dormo con mia moglie. E allora hai sognato una donna, lo vedi? No, non penso proprio. Tu hai sognato una donna, Freud. Non devi vergognarti. E la donna dormiva anche lei? Sì. Hai problemi di sessualità. Come fai a saperlo? L'ho capito dal sogno, Freud. La donna che dorme è una donna che non fa l'amore. Ma forse non dormiva, forse aveva solo gli occhi chiusi. Terribile, sei impotente. Chi te l'ha detto? L'occhio chiuso della moglie e il non voler guardare la realtà che sia davanti. Terribile. Ma forse ricordo male, forse non erano chiusi, forse erano aperti, spalancati. Certo, vuol dire che non l'hai mai soddisfatta e adesso è rassegnata. Guardava verso di te? Sì. Ti tradisce? No, guardava altrove, guardava dall'altra parte. Sei omosessuale. No, non guardava, ero io che la guardavo. Avete figli, Freud? Sì. Non sono tuoi. E di chi sono? Di che colore era verniciata la stanza? Di verde. Sono figli di tuo fratello. Come posso reggere il peso di tutta questa sofferenza? Vai a dormire, Freud, e non pensarci. La notte porta consiglio. Buonanotte. Sogni d'oro. L'amore tra i gufi. Sei fidanzata? Sei il primo gufo che vedo. Hai progetti per il futuro? Nessuno. Sei mai uscita da questa casa? No. E tu? Nemmeno io. Ma io non ti ho mai visto. Fino a ieri abitavo in bagno e non uscivo mai. Sei molto bello. In paragone a cosa? Al frigorifero. Hai mai baciato il frigorifero? Una sola volta, me ne vergogno. Mi vuoi sposare? Non ho alternative migliori. Rapimento alieno. Venga qui, le accadranno cose indicibili. Inenarrabili. Esperienze mai viste. A famiglia? Ah, povera mamma. Ha degli amici? Niente amici, meglio così, meno gente da salutare. Ha solo un modo per salvarsi. Scelga una persona del sesso opposto al suo e la lasceremo vivere. Mors sua, vita tua. Ecco. Quella lì? Perfetto, venite, venite. Ora, accoppiatevi e filiate. Così rapiscono gli alieni, approfittando della vigliaccheria. Breve storia d'amore. Si incontrarono quasi per caso. Ma i genitori non volevano. Fu amore a prima vista. Ma i genitori non volevano. Al chiaro di luna si scambiarono il primo bacio. Ma i genitori non volevano. Ma cosa fai, non lo conosci nemmeno, è igienicamente poco corretto. Decisero senza posa di sposarsi. Ma i genitori non volevano. È sessualmente poco entusiasmante e stupido dal punto di vista riproduttivo. Fu allora che decisero di fuggire. Ma i genitori non volevano. La decisione successiva fu più tragica. Decisero di togliersi la vita. Non per drammatica evenienza, ma per ineluttabilità degli eventi. Lei beve dell'acido, lui preferì della cicuta e stramazzarono al suolo. Ma i genitori non volevano. Potere della famiglia. Alieni nella storia. Gandhi. Allora Gandhi, se io ti do uno schiaffo, tu che fai? Ma io t'ammazzo, ma io ti taglio sopracciglia, ti strappo Gandhi, i capelli, Gandhi, ti uccido, Gandhi, io ti... La non violenza, Gandhi. Giusto. Ma io ti strappo i piedi, ti cavo le narici, io ti le faccio narici. Male, io Gandhi, ti Gandhi, la risposta è sempre la non violenza, giusto o no? Giusto. Altra guancia. Bravo. Grazie. Le lusinghe. Posso aiutarla? Non riesco a trovare la porta d'entrata. Eccola qui. Ma lei è veramente gentile. Non mi lusinghi. No, non la lusingo, dico solo la verità. Ah no, questa non è la verità, questa è una lusinga. No, una lusinga sarebbe stata: la sua gentilezza è pari soltanto alla sua bellezza. E beh, questo non lo pensa? Non mai. Questo mi offende. Preferisce la lusinga? Preferisco la lusinga. Lei è una persona troppo sensibile e delicata, la sua è una bellezza interiore. Ed esteriore? Lei è troppo intelligente e sagace. Lei mi lusinga. Appositamente. Le losanghe. Posso aiutarla? Non riesco a trovare la porta d'uscita. Eccola qui. Questa è una losanga. È una losanga, ma funge anche da porta. È bene distinguere porte e losanghe. Lei è una persona davvero puntigliosa. Lei mi losanga. Sul concetto di losanga. La losanga è un rombo schiacciato. Che cosa sia il rombo lo sanno tutti, soprattutto quelli che hanno conosciuto il temporale. La losanga rappresenterebbe per alcuni, se sezionata a metà, la doppia immagine di Dio, quindi padre e figlio. A questo ragionamento si oppone fermamente lo Spirito Santo, che storicamente cerca di insidiare il ruolo del figlio. Ma i figli sono pezzi di cuore e quindi il Sacro Cuore interviene fermamente in difesa del Messia. A complicare le cose, il plurale di losanga, losanghe. Lo Spirito Santo santifichi questi doni perché diventino lo corpo e lo sangue di Gesù Cristo. Ma, a sorpresa, lo Spirito Santo rifiuta di santificare i doni. È la crisi. Dio lascia il gruppo e Cristo guarda con interesse verso il buddismo. Il trio si è sciolto, come si è sciolto anche losanghe, non più pompato dallo Sacro Cuore, esploso di tristezza. Sul morire all'improvviso. Ma che cos'è losanghe? Vediamolo subito con un pratico esperimento da non ripetere a casa. Prendo la mia pistola personale, la punto verso il mio collega personale e faccio fuoco. Perché un gesto irrazionale. E per un gesto irrazionale io lascio questa valle di lacrime. Addio. Addio. Salutate mia moglie da parte mia, baciate i miei quattro figli sulla fronte e dite loro addio. Addio. Però non vi sbagliate, non è che poi baciate mia moglie e salutate i miei figli, mi raccomando. Guardi, non si preoccupi, signora, suo marito non tornerà più. Bambini, il papà adesso recita con gli angeli. Con gli angeli. Ha visto, sono stato preciso e ci ho anche messo del mio. Perfetto, perfetto. Forza signora, saluti il suo marito che sta per morire. Bambini, un'ultima parola a papà che non lo vedrete ciao, più. Ciao. E lei, vuole dire qualcosa che forse hanno da fare? Sì. Così rapiscono gli alieni, approfittando della famiglia. La famiglia aliena. Ecco di fronte a noi gli elementi tipici di una famiglia aliena: padre, madre, figlio, nonno e morto. Ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze. In realtà i ruoli della famiglia aliena sono invertiti. Quindi il morto è il capofamiglia, che dà ordini alla madre, che è il morto, che prende in braccio il figlio, che è il nonno, che però vorrebbe andare con il padre, che è il figlio stesso, con un'evidente disapprovazione del nonno, che ora come ora, vista l'età, non saprebbe dire chi è. Se una mattina il padre, che è il morto, deve accompagnare a scuola il figlio, che è il padre stesso, la mamma, che è il nonno, si insospettisce. Manda dunque a chiamare la polizia, che sono io. Dopo un rapido interrogatorio, si viene a scoprire che il morto, che è la mamma, ha ucciso il nonno, che è il figlio. Il complesso di Edipo si spreca. Ma gli alieni non sono campioni di logica e quindi appongono a verbale che la mamma è il morto e la sintassi è raddrizzata. Potere della famiglia. La famiglia Gufo. La famiglia Gufo invece ha una struttura molto semplice. Lasciatevi pure ingannare dalle apparenze. Il capofamiglia è sempre Luigino, depresso e poco incisivo. Al suo fianco Marisa, non dotata degli strumenti necessari per immaginare un futuro migliore. A completare il terzetto amoroso, il frigorifero, che aperto da nutrimento ai tennuti e chiuso diventa il glaciale amante di un complesso ménage à trois. Il frigorifero altro non è che l'algida metafora di Gianni Barba, l'amante delle piume di cristallo. Cambiando l'ordine dei componenti, la tristezza rimane intatta. Luigino perde il lavoro. Ho tanto sonno. Devi andare al lavoro. Non più. Mi hanno licenziato. E perché? Perché avevo sonno. Ma hai dormito 2 ore nelle ultime 2 ore. Non sono più il gufo di una volta. E che gufo sei? Sono il gufo di adesso. Piacere? Piacere mio. E come faremo ora? Avremo più tempo per dormire. Cercherai un altro lavoro? Lo cercherò nel letto. Non penso lo troverai. Pazienza. Speriamo bene. Alieni nella storia. Marx. C'è gente, caro Marx, che ha un sacco di soldi e più ne ha, più ne fa. Sono contento per loro. E per fare questi soldi, Marx, sfruttano il lavoratore. Fanno bene, d'altra parte il lavoratore si chiama così perché deve lavorare. Marx, ma cosa ti ho insegnato allora? La non violenza, infatti io sono una persona pacifica, educata e rispettosa. No, Marx, cosa ti ho insegnato? Che il male del mondo è? Il capitalismo. Capitalismo. E allora se tu avessi un capitale, cosa faresti? Ma niente di che, comprerei un mattone, poi un altro mattoncino, ci farei una grande villa, comincerei a indire dei ricevimenti invitando moltissima gente, poi prenderei della servitù per farmi servire, avrei paura che la servitù mi rubasse il capitale e quindi comprerei un allarme antifurto e un cane da guardia di razza. Marx, cosa ti ho insegnato? A camminare sulle acque, infatti domenica mattina vado... Marx, io ti ho insegnato che non bisogna inseguire la proprietà privata, ma privarsi della proprietà. E allora via i mattoncini e via la casa. Ma senza casa non posso più indire i ricevimenti. Ma certo, senza casa niente ricevimenti, è normale. Ma poi lascio tutta la servitù su una strada, la disoccupazione aumenta. Ma non la lasci sulla strada, Marx. Distribuisci il capitale soldino per soldino e ognuno avrà una casa sua. Ma senza capitale poi non ho più bisogno dell'allarme antifurto. Niente antifurto, solo il cane, ma meticcio. Bastardo. Gianni Barba e Luigino. Non lavoro più. Non hai mai lavorato. Mi sento così svuotato. Sei sempre stato vuoto. Marisa è l'ultima cosa che mi rimane, ma non vorrei venderla. È un bene rifugio. Ah sì, anche se di solito mi rifugio in bagno. E Marisa? Aspetta! A furia di aspettare l'hai persa, Marisa. Ah, mi dispiace molto, vorrei riconquistarla. Non ce la farai mai. È bello avere un amico che ti supporta. Sono cinico e spietato, è colpa della barba. La gelosia di Luigino. Marisa, sei il mio bene rifugio. Che belle parole! Vorrei riconquistarti. Perché dici questo? Perché tu mi tradisci. Ma in casa ci siamo solo io e te, ci guardiamo da mattina a sera. Ho trovato delle piume nel mio letto. Sono tue. Io non ho la barba. Una rondine non fa primavera. Ma non sono piume di rondine, sono piume di Gianni. Un Gianni non fa primavera. Ma a me non interessa la primavera. Sei una bestia insensibile. Alieni nella storia. Dante. Allora Dante, ho letto la bozza del tuo ultimo romanzo. Ti è piaciuto? Bello, bello, no, vero? No, no, no, non mi è piaciuto. Io ti avevo chiesto un romanzo di chiaro stampo cattolico. E io ho fatto come hai detto tu, i tre regni dell'oltretomba e il peccato, la vita dopo la morte. No, no, no, non hai fatto come dico io, eh. Qua ci sono due libri dove non succede niente, hai messo tutti in paradiso, Saprai distinguere tra buoni e cattivi? Certo, è il mio mestiere. È il tuo mestiere. E allora perché in paradiso mi trovo il conte Ugolino che si è mangiato i figli? Non poteva morire di fame. Paolo e Francesca? Si amavano. Si amavano, ma erano adulteri, Dante. Vabbè, due correzioni. Due correzioni. Caino, Cerbero, Caronte. Perdona loro poiché non sanno quel che fanno. No, no, no, Dante, dobbiamo smetterla con questo pietismo, eh. Tu vuoi vendere milioni di copie? Sì. E allora fai come dico io. Va bene. Differenti funzioni di alieno. L'alieno come alieno. Ma tu sei un alieno? Sì, un alieno. Vieni dallo spazio profondo? Dallo spazio profondo è un eufemismo. Sei venuto per conquistarci e sottometterci? Un po' per quello, un po' per noia. Mi ucciderai. Ma non ne ho bisogno, sei un così bravo ragazzo. Differenti funzioni di alieno. L'alieno come demone. Ma tu sei il diavolo! No, un diavolo, uno fra i tanti. Sei venuto dall'inferno! Dall'inferno profondo, stavolta la specifica era corretta. Sei venuto per prendere la mia anima. Un po' per quello, un po' per noia. Brucerò all'inferno. Hai la coda di paglia. Differenti funzioni di alieno. L'alieno come amico immaginario. Ma tu sei il mio amico più caro! Io? Ma io non esisto! Pensavo non arrivassi più. E pensavi bene, io non sono mai arrivato e non arriverò mai. Sono un parto della tua mente malata. Giochiamo insieme? Giochiamo a solitario, così almeno tu non ti annoi. Resterai sempre con me? Anche se non ci sarò, tu non te ne accorgerai. Differenti funzioni di alieno. L'alieno come espediente narrativo. Era una notte buia e... L'alieno, la sua voce, la sua fisionomia sconosciuta, la sua l'alieno che nessuno vede e che tutti ha paura, mentre la pioggia diventa l'alieno, gli ombrelli non saranno più un sicuro riparo. Luigino cerca lavoro. Esaminiamo il suo curriculum. Competenze in sonno, lavoro, dormiveglia, esperto in assenza inebetita, molto bene, notturno e sospettoso, collo rotante, apatia diffusa, tendenze suicide, il suo è un profilo notevole, sposato o celibe, freelance, le faremo sapere. Speriamo bene. Rapimento alieno. Guardi qui che essere umano. Faccia vedere. Guardi che bel braccio solido. Fortissimo, solido e forte. E guardi che mente. È incredibile, esseri umani così non ne fanno più. Davvero, davvero. Ma lei ci è nato o ci è diventato? Bellissimo. Si faccia vedere da tutti. Così rapiscono gli alieni, stordendovi di complimenti. Marisa cerca lavoro. Cercavo di arrotondare vendendo il mio corpo, ma in questa casa non passa mai nessuno. Hai provato ad aprire la porta? Ho paura di prendere freddo. È giusto. Alieni nella storia. Cristo Gesù. Allora Gesù, questo è un pane, questo è un pesce, cosa fai? Me li mangio. Ma come te li mangi Gesù? Devi fare il miracolo, ti ricordi? Il miracolo, devi moltiplicare, no? Sì, faccio pane per pesce, metto il pane nel pane per pesce diviso... Lo sai fare Gesù? Sì. Lo sai fare? Lo so fare. Pane per pesce diviso, aggiungo il pesce al pane dentro il pane... Gesù? Lo sai fare? Non lo so fare. Non lo sai fare. Vabbè, è successa un'altra cosa, è morto Lazzaro. Che fai? Mi metto a piangere, compro i crisantemi, mando un telegramma. Gesù, ti metti a piangere? Mando il telegramma. Devi fare il miracolo, Gesù, eh? Moltiplichiamo Lazzaro. Lazzaro per la scapola di Lazzaro per Lazzaro diviso la radice quadrata del Lazzaro per Gesù. Qual è il miracolo di Lazzaro? Moltiplichiamo Lazzaro. No. Lo devi far resuscitare. Sì, vado da Lazzaro, gli metto la testa bagnata sulla fronte, lo scuoto, l'elettroshock. Lo sai fare. Ma non le devi saper fare queste cose, devi convincere la gente che ne sei capace, no? Vai da un amico e dici che trasformi l'acqua in vino, vai. Mica crede. Ti crede, basta essere convincente, vai. Trasformo l'acqua in vino. Vedi che ti crede, continua. Guarisco i ciechi sordi. Vai avanti. Cammino sulle acque. Ce l'hai in pugno, Gesù. Sono il figlio di Dio. Perfetto, più le spari grosse e più ti credono. Terzo discorso alieno. Il lavoro è unico motore della civiltà. Noi alieni disprezziamo profondamente le qualità intellettive di voi esseri umani. Ciò nonostante, ammiriamo molto la vostra scocca e la vostra carrozzeria. Per questo motivo costruiremo delle nuovissime macchine automatizzate utilizzando le vostre braccia destre e gli emisferi sinistri del vostro cervello. Forse è stato un po' troppo diretto. Attutisca un po'. Ma che cos'è un braccio destro se non la copia funzionale del braccio sinistro che la patria vi ha donato? E quanta parte del cervello pensate di utilizzare? Meno del 10%? Vorreste forse impuntarvi e incaponirvi? Dica qualcosa in più sulle macchine. Le macchine automatizzate, fiore all'occhiello della civiltà, vi daranno più tempo per la natura, per la famiglia, per gli amici, per i figli. Delicato su questo passaggio, mi raccomando. Ma queste macchine avranno pur bisogno di un carburante e quindi vi chiediamo espressamente che i vostri figli primogeniti diventino carburante esclusivo di questo nuovo sistema di civiltà. Delicatissimo. Sciolti nelle motrici produrranno energia. E poi? Ma che cos'è un figlio primogenito se non il primo di una lunga serie di figli che rimarranno di vostra esclusiva proprietà, eccetto le braccia destre e gli emisferi sinistri del cervello, come d'accordo? Mi sembra che non siano d'accordo. Eppure sono idee progressiste. Marisa chiede il divorzio. Marisa, ti sento distante. A volte non ti sento proprio. È un mio problema acustico? La mia voce la sento però. Mi sento? Sì, mi sento. Allora sei tu che non parli. Hai perso la voce, Marisa? A pensarci bene, non ti vedo proprio. Marisa, sei in casa? Ma certo che sei in casa. Non esiste niente fuori da questa casa. Forse il pianerottolo, ma l'ho visto solo una volta e dallo spioncino. Marisa, da un po' di tempo non ti amo più come una volta. Sarà lo stress, il solito tran tran, ma ti ricordo più in fiore. E poi una volta mi dicevi sempre Gianni Barba, Gianni Barba, Gianni Barba. Adesso non mi dici niente. Che rapporto è il nostro? Torno a vivere da solo. Il bagno sarà la mia Waterloo. Quarta ipnosi. Bene, adesso voi alieni avete in mano tutto il pianeta. E cosa volete fare? Niente. Oh, degli alieni nichilisti, è bellissimo. Ma dovete essere in molti per soggiogare tutti gli esseri umani. Quanti siete? Siamo due. Due? Tu e chi altri? Marisa. E chi è Marisa adesso? È un gufo. Un gufo e un alieno? Ma vi conoscete? È mia moglie. Ah, e la ami? Sì. Davvero? No. Ah. E lei ti ama? No. E perché? Ama Gianni Barba. Ma chi è adesso questo Gianni Barba? Sono io. Ma tu eri gufo, poi sei diventato alieno. Non ti sembra di stare complicando troppo la personalità? Io sono il gufo Luigino, ma a volte ho la barba e divento cinico e spietato. Ma abbiamo visto prima che non sei gufo. Ah, e Marisa? O è un gufo o è tua moglie. È mia moglie. Ecco, perfetto, vedo che ritorni a più miti consigli. Sì. Allora ti chiedo, chi ti ha mandato da me? Marisa! E perché? Dice che sono alienato. E ha ragione, dovresti volerle più bene. Ma io la amo. Davvero? No. Finale amaro. Marisa, noi non siamo gufi. Ci hanno tolto il lavoro, ci hanno tolto la dignità, non possono toglierci anche la specie animale. Ma guarda, questa non è la nostra faccia, è una maschera, non siamo gufi. Sei sempre stato un gufo con la testa sulle spalle, perché ora ce l'hai in mano? Mi fai paura. Scusa, ma ascolta Marisa, noi parliamo, non siamo gufi. Noi parliamo perché siamo gufi istruiti. Adesso vai a lavare le zampe che è pronta la cena. Alieni nella storia. Darwin. Secondo me chi nasce tondo non può morire quadrato. Ancora questi preconcetti, Darwin. Beh, di certo non può morire triangolare, la perfezione è solo di Dio. Ma basta, Dio, basta! Ti chiedo ancora, chi ha creato l'uomo? Beh, Dio ha creato Adamo ed Eva, li ha messi nel giardino dell'Eden. Ma quale Adamo ed Eva? Darwin, l'evoluzione, le scimmie! Le scimmie hanno creato l'uomo! La creazione dell'uomo. Allora, tu continui a dire che l'uomo l'hai creato tu. No, perché io pensavo di averlo creato personalmente, ti dico, eh. Vabbè, non è il caso di scaldarsi, eh. Io pensavo che tu avessi creato i cieli e le terre e io l'uomo. Vabbè, vabbè, allora tu che sei così esperta, il sesto giorno io cosa avrei creato? Il gufo. Il patto d'amore. Io amo un altro gufo. Ma ci sono solo io in casa. No, ci sono anch'io. Ah, e chi sei? Marisa. Piacere, io sono Luigino. Piacere, Luigino. Che fai nella vita? Vivo. E nel tempo libero? Vegeto. Ah, i miei stessi interessi, le mie stesse passioni. Sei fidanzato? No, e tu? Io sono sposata. Ah, e con chi? Con te, ma amo un altro gufo. O forse Gianni Barba. Lo conosci? È un buon amico. È cinico e spietato, ma è colpa della barba. Scapperai con lui, mi lascerai da solo. No, resterò sempre con te, ma continuerò ad amare sempre lui. Sono felice. Pescatori. Ma cosa fa con quel retino in testa? Mi preferisco. Ma poteva rapire quello laggiù. Io sono sicuramente meglio. Beh, poteva rapire quello con gli occhiali. Non c'è paragone alcuno. Quella ragazza, quella bionda. Ma mi guardi, sono meglio di tutti. Così vanno via gli alieni, rapiti da se stessi.